24 mattino. L'Italia si desta. Di Alessandro Milan. Siamo di fronte, uso una parola che prende in prestito dalla dottrina sociale della Chiesa, a uno spaesamento antropologico. Eccolo lì il nostro problema. Siamo di fronte allo spaesamento antropologico, come dice il vice ministro all'economia Stefano Fassina. Io infatti questa mattina mi sono svegliato e ho detto, ma insomma sempre le solite cose, e l'IMU, e lo rinviamo in autunno, e il PDL attacca Saccomanni sull'IMU, e le villette a schiera, non mettiamo le villette a schiera, e l'IMU la salviamo come... Sì, non ce la contraffi dai prezzi, Milan, sei proprio un coglione. Ma è possibile che sei un pirla così lavori in radio? E il mondo va così. Vabbè, pazienza. Vabbè, allora, dicevo, l'IMU, l'IVA, la TARES... La Council Tax, è questo, è lo spaesamento antropologico, ecco la soluzione che ha dato Stefano Fassina, deve essere questo, assolutamente così, questa è la soluzione, voglio salutare tutti, questo è 24 mattino che riprende una nuova settimana, è la terz'ultima per quel che mi riguarda, poi ci saranno le vacanze, e quest'anno è iniziato subito l'attacco, e chi fa le vacanze è un nemico del popolo, evidentemente è così. Saluto Alessandro Longoni in redazione, saluto il nostro alpino Peter Pescapè in regia. E che dire, possiamo aprire il nostro Parlamento? Sì, di altre questa settimana? Settimana decisiva, Il caffè volentieri a tutti quanti. È la decima. Io non lo voglio il caffè della Minetti. Tu continui, che forse hai preso anche tu i suoi favori. Trossere col caffè della Minetti. Noi non lo vogliamo dalla Minetti, brutto cretino d'un Milan. Pazienza, ancora tre settimane. Settimana decisiva questa, la decima. Per la riforma elettorale e settimana decisiva questa, la decima, per l'abolizione delle province. Voglio salutare Mario Adinolfi, buongiorno Marione. Buongiorno, dai Alessandro, sono solo tre settimane, pensaci. Sì, decisive. Adinolfi lo sentite così, bello vispo, ma in realtà è depressissimo, è tornato in Italia. Mamma mia. È tornato in Italia. Mario, ti faccio conoscere il nostro grandissimo, unico Albertone Forchielli, presidente dell'Osservatorio... dove sei, Forchielli? Sono ancora a Pechino. Ah, lì sì che si respira aria buona. Sì, a pieni polmoni. Sì. C'è ancora la nebbia dello smog in casa, sempre, sì. Sì, oggi sembra, sì, anche oggi sembra di essere occhio bello. Occhio bello. Sì, perché... bello sul Po, lì tra il Polesine e l'Alto Ferrarese. E c'è sempre nebbia, anche il 10 agosto c'è nebbia. Perché Adinolfi, Forchielli vive a Pechino, dice c'è uno smog che non vede dal salone alla camera. Brutta Pechino, guarda, ho fatto un giro in Cina, non ci torno più, pazzo. Hai capito? Non ce l'ho fatta, Pechino, Shanghai, Nanchino, mi dispiace, ma... La lascio a Forchielli. Dai. Forchielli, bocciata subito, perché lui sta a Las Vegas, si diverte di più così. Capisco. No, capisco. Il spirito di sacrificio mi porta anche a sopportare l'insopportabile. C'è da lavorare. Perché il caldo di Pechino, è una cosa terrificante. Ma quanto fa a Pechino adesso? Adesso, quanto c'è Forchielli a Pechino adesso? No, c'è un caldo umido, adesso è difficile, basta. Anche se sono 30 e rotti gradi, ma c'è un caldo umido. È l'umidità pazzesca. Non si riesce, non si sta fuori. Si sta tutti chiusi con l'aria condizionata. Comunque, scusate, io ho capito la soluzione. La soluzione, sapete quando ci sarà? In autunno. Ah, ricorderemo quest'autunno come quel memorabile autunno del 2013. Forchielli, l'IVA in autunno, l'IMU forse in agosto, ma se no in autunno. Il ripianamento del debito, Letta ha detto c'è un programma pronto ad autunno. Le tasse in autunno, la spending review in autunno, forse cade il governo in autunno. Tutto in autunno, quel memorabile autunno. Che succede in autunno, Forchielli? Qua, tutto qua. Ma no, l'unica cosa rilevante sono le elezioni tedesche, ma... non possono spostare queste variabili nostre. Un governo che non sa decidere, che non può decidere. Questo governo è come il polpettone della rosticceria, ormai è così. Cioè, è un magma, è un magma, magma. È quello che non capisco, la cosa incredibile, sta gente attaccata lì al potere, capito? Chi ci tiene a essere lì, capito? Ma con che spirito, capito? E in che senso? Fa quelle figure lì. Ma no, ma capito? Cioè, sono lì, questo governo è fatto di sta gente che vuole, animata da una incredibile ambizione personale, che poi irrimediabilmente vanno lì a fare la figura da pirla, capito? Cioè, okay. Si giocano la vita per 3-4 mesi, si giocano la reputazione, quel poco che hanno, capito? Per non decidere assolutamente niente, capito? Per vantarsi di cose che non sono loro. Ma vantarsi, sono delle palle, capito? Sono stati eletti. Io non riesco a capirlo dentro, mentre che io... E andare al governo in un paese come l'Italia in questo momento dovrebbe essere un sacrificio incredibile, una cosa che uno fa con grande spirito. Se invece voi tutti attaccati lì, andarci e starci, contar palle, per starci ancora di più e per rimandare, capito? Per non fare niente, capito? Non so, Adinolfi, tu che l'hai visto, tu che l'hai visto da dentro anche il potere. Io non li capisco, non li capirò mai. Non li capisco, glielo spiego a Forchieri. Spiega. Intanto si prendono 15.000 al mese, che non è che gli fanno schifo, insomma. Stefano Fassina, se non parlava dello spaseramento antropologico e faceva il vice ministro dell'economia di questo paese, probabilmente era uno da insegnante alle superiori, 1.300 al mese era già tanto, insomma, no? Allora, queste persone, tantissime di queste persone, hanno il biglietto alla lotteria, quindi la loro unica, è spiegabilissimo, la loro unica... Il loro unico obiettivo è la permanenza in questa condizione di privilegio, quindi ovviamente ogni gradino che fai nella nomenclatura ti garantisce, non è che Fassina adesso finisce questo giro e il prossimo giro non fa minimo il parlamentare, quindi si è garantito altri 5 anni da 15.000 al mese che lo tranquillizzeranno per il resto della vita, per lui e sue generazioni. La cadrega, come si direbbe a Milano, la cadrega. I soldi. Allora, la chiave è sempre una, il denaro. Questi sono posti iper remunerati e l'alternativa per il 98% di queste persone sarebbe una condizione da lavoratore salariato anche di livello mediocre, perché avendolo visto da dentro posso assicurarvi che la qualità media del politicante italiano è il denaro. Forchielli, hai capito? Intanto il vil danaro, vil o danaro comunque. Il denaro. Sì, ma anche quello. Sì, adesso io non sapevo che guadagnassero, credevo che i ministri non guadagnassero, perché come parlamentari non possono avere il doppio compenso. Da parlamentare prendi minimo 12 governo, mai caduto prima di 2 anni e mezzo. Ma stipendio poi pensione, ma per il membro del governo non lo sapevo. Sì, no, perché Forchielli dovrebbero guadagnare 2 stipendi, ma Letta ha tolto lo stipendio, esatto. ha lasciato quello da parlamentare, però quello più alto, cioè uno sceglie quello più alto ovviamente, quindi 15.000 euro al mese. Ma lo stipendio del ministro non era così alto, comunque... Cioè, no, ma quelli che sono parlamentari... È probabile che Adinolfi abbia ragione, sono attaccati a quattro spiccioli. Sì, molto probabile. Sì, ho capito, ma qui c'è un'Italia, c'è un paese... Oh, adesso è partito questo, attenzione, partirà... Io quando l'ho letto volevo dare un pugno al giornale, no? Cioè il giornale in cui l'ho letto, cioè ovunque. L'operazione Orgoglio di essere italiani, no? Ieri dall'Expo, sentite Enrico Letta, il premier, che dice che c'è una cappa. Che ci, no, di autolesionismo, è la cappa il problema dell'Italia, che non è una lettera, cioè quella roba lì un po' come sta a Pechino sempre, la cappa. Un'Italia, lo voglio dire, lo voglio sottolineare, che deve uscire una volta per tutte da una cappa di sottovalutazione e di autolesionismo. L'Expo sarà l'occasione per uscire da questa cappa di sottovalutazione e di nostro stesso autolesionismo. È una cappa, signor Presidente, come lei ci invita sempre a dire, la a cappa, fare, la è cappa. Una cappa che la cappa, l'ha detto 4 volte, la cappa, Forchielli parte l'operazione Orgoglio, più orgoglio di essere italiani, anche il capo dello Stato, l'orgoglio ci salverà, mica meno tasse o più soldi sullo stipendio, no, l'orgoglio ci salverà, no? Forchielli, dove andiamo con l'orgoglio? Sì, io sono orgoglioso di un'altra Italia. Io guardo indietro, non guardo questa Italia qui. Per farmi coraggio guardo all'Italia dei nostri nonni. Tu lo sai, Milan, cos'è la mia teoria. Io mi carico guardando le foto degli alpini, le foto dell'Ortigara, mi carico con altre cose. L'Italia degli ultimi anni non mi carica. Per quel che riguarda l'Expo, io ho sempre avuto la mia teoria, ossia che l'Expo è una cosa che sta diventando irrilevante in un mondo virtuale. È stata rilevante a Shanghai perché aveva grandi volumi, però ormai l'Expo è un fenomeno con sti padiglioni, capito? Sembra, è molto demodé secondo me. Quindi stiamo dando troppa importanza all'Expo. Ah, cioè, capito? Io personalmente, io vivevo a Shanghai quando c'è stato l'Expo a Shanghai e mi son ben guardato andare mai a visitare. Eccolo lì. È una roba. Cioè, io sono sempre stato contrario. In un mondo virtuale dove tu ti fai l'Expo sull'iPad in 4 secondi, fai molto di più. Invece sti padiglioni. Insomma, a Dino... la gente che fa le tagliatelle, mi sembra una roba un po'. Insomma, a Dinolfi ci stronca anche l'Expo. L'unico... Ma come l'orgoglio doveva ripartire da qui? Guarda, io sono stato all'Expo di Hannover, quella precedente a Shanghai, e devo dire che mi aveva abbastanza colpito l'esperienza. È vero che l'Expo di Hannover è ormai quasi 10 anni fa, e quindi in 10 anni il cambio del mondo è abbastanza cambiato. 10 anni fa l'iPad non esisteva, insomma, è tutto virtuale. Era diversa. Mi intristisce la retorica sull'Italia. Bisogna essere orgogliosi. L'orgoglio! Bisogna essere orgogliosi se ci sono ragioni di essere orgogliosi. Oggi, insieme alla prima pagina sull'Expo, leggo anche la prima pagina della stampa che ci dice che nei primi 5 mesi del 2013 sono fallite 5.500 aziende, infatti. Nel 2012 5.000, quindi nel 2012 5.000, primi 5 mesi dell'anno 2013, che doveva essere l'anno della ripresa, 5.500. Un po' meno... al mio amico Enrico Letta ricorderei un po' meno retorica, un po' più di attenzione, un po' più soldi, un po' più soldi e un po' meno orgoglio. I dati reali che sono tragici, cioè l'Italia è un paese che va al default nel 2014, l'Italia va al default con questo andamento economico. Vediamo se ci arriviamo, non so. Forchielli dice 2014 default, dice Maria Dinolfi, addirittura l'Italia. Forchielli, che ne pensi? No, il default non lo dovremmo fare perché abbiamo un avanzo primario, no, ancora siamo lontani, abbiamo molto debito interno, molto debito sottoscritto internamente, no, questo non credo. Però insomma non va bene. Sì, credo, sono riprese da ridere, no, quando parlano ci sarà ripresa, lo 0.1%, 0.7%, capito, l'anno prossimo. Sono riprese che non incidono sul potere d'acquisto, sono riprese che non incidono sull'occupazione, ma questo del resto è l'Europa, l'Italia non è sempre un po' peggio del resto dell'Europa, però stanno a contare su delle riprese che non possono incidere sostanzialmente sul nostro benessere. No, tra l'altro il dato che diceva prima Dinolfi, caro Forchielli, cioè oggi la stampa ha questo dato in prima pagina, 3 aziende chiuse ogni 2 ore, ma non per i debiti, ma per i mancati incassi. Io leggevo oggi sul Sole 24 Ore che gli enti locali, così era la frase, gli enti locali sono prudenti nel pagare i debiti alle imprese. Allora io ho detto, cari italiani, fate anche voi così, quando avete un debito, Forchielli, siate prudenti nel pagare, prudenza, pagate con prudenza, poi se vi dormono dei Rottweiler dell'Agenzia delle Entrate sullo zerbino di casa, prudenza, no? Forchielli, la prudenza nel pagare i debiti alle imprese, con calma. Sì, perché no, è molto semplice, per fare il bilancio, i debiti verso le imprese non contano, il circolante diciamo non conta come debito, quindi il modo più rapido per rientrare nei parametri europei è quello di non pagare nessuno. Un gran classico all'italiana, è la regola. Prudenza. Per cui ci sono degli arretrati nella pubblica amministrazione, è incredibile, gente che deve essere pagata da 2 anni, da anni, così da che anni, poi si rientra anche nei più parametri del 3%. 24 mattino. Buongiorno Alino, sono tornato per dirti che abbiamo risolto anche il problema rifiuti. Diamo 2 euro al chilo a chiunque porti rifiuti differenziati in discarica. Niente più strade sporche, niente più disoccupazione. L'Italia è così pulita che la Svizzera a confronto sembra Beirut. Allora, i parlamentari agiscono e non pensano, i saggi pensano e non agiscono. A me sembra un film di Totò, ridete gente, ridete. Ci mancava solo questa, pensare gratuitamente. No, ma la puntata di questa mattina è stata strepitosa. Questo vecchio democristiano, pensare gratuitamente. Non potrebbe andare a pensare gratuitamente in un'acciaieria o in una miniera, se ci sono ancora? Pazzesco, pazzesco, pazzesco. Intanto mi presento, io sono l'assessore che si è fatto la tinta per la ricrescita. E volevo dire alla signora che vuole ammazzare, voleva venire i politici. Signora, guardi che io di fianco, seduto al mio posto, lo scranno della regione, ho una ragazza bellissima che non mi guardava più. Ah, questo frastuono che sentite non è il furgone che sta andando sul pavè, è l'idromassaggio che sta facendo. Grazie, ciao Alessandro, saluta tutti gli arrabbiati che vogliono fare la rivoluzione. Ma che rivoluzione volete fare? Ma state a casa. Alessandro, di a quei mataminchia dei grillini che imparino a fare politica, che non rompano i coglioni, facciano i politici. E Milan, per cambiare una norma costituzionale ci vuole una legge ad hoc. Questi signori che con un decreto legge volevano togliere le province, un avvocaticchio di merda, perché non se lo prendono. E decidono dei nostri soldi. Buongiorno Milan, il necrologio che ci ha pagato quel consigliere comunale campano, ma non era il suo? Peccato. Vabbè, questi sono un po' gli umori di piazza della nostra segreteria telefonica, Maria Dinolfi. No, c'erano quelli, devo fare una spiegazione, quelli che se la prendevano con D'Onofrio. Era D'Onofrio che venerdì ha detto noi, senti che ha detto quando gli ho chiesto, ma voi saggi che fate? Senti anche Forchielli in Cina, e voi saggi che fate? Ho chiesto a D'Onofrio. Che cosa fanno queste persone? Pensiamo, il pensiero è un'attività libera, pensiamo, è legittimo pensare o no. E siccome non siamo retribuiti, possiamo pensare gratuitamente o no. Eccolo lì, ad Inolfi, la gente dice, pensiamo, noi gioco, pensiamo. Il gioco dei saggi, che è un altro dei giochi che è servito al rinvio, no? Perché la tarantella sulle riforme istituzionali è sempre una tarantella che serve a diversificare il pensiero rispetto ai problemi reali che questo paese vive, è uno di quei giochi insieme all'IMU, tutto quanto per portare la palla almeno ad ottobre. Certo. Quando hai portato la palla ad ottobre, hai le elezioni europee a giugno 2014, sai che nessuno toccherà nulla e sostanzialmente ti sei fatto un'altra annata. Quel memorabile, Forchielli, vedi, tutto torna lì, quel memorabile autunno del 2013. Devono succedere tante di quelle, no, succederanno tante di quelle cose nell'autunno 2013. Alberto, non riusciremo a star dietro alle cose che succedono. Com'è che hai detto, il governo è un polpettone da rosticceria, cioè dove metti tutto insieme, no? Italiana della comunità europea, per cui si cerca di guadagnare tempo e tutti i saggi, questo e quell'altro, sono tutti in funzione di questo, di questo allungare i tempi. In Cina non lo farebbero. Nessuno ha interesse. In Cina non lo farebbero un bel comitato di saggi. In Cina non lo farebbero un bel comitato di saggi? No, in Cina no, è pieno di saggi, pieno di centro di ricerca, anche qui hanno dei grandi problemi, ci sono le lobby, ma adesso non pensiamo che la Cina sia tutta articolata, c'è la destra, la sinistra. Se anche in Cina fare le cose è diventato difficile, i cinesi hanno problemi molto, molto importanti. Per cui il problema è che in Italia si parla, poi si dimentica che è l'impresa che fa, che crea occupazione, crea ricchezza, capito? Nessuno mette mai al centro

una pagina, pagina 10, cari colleghi del secolo, che leggo sempre con grande passione, la carta costa, ricordatevelo. 24 mattino. Sono le 8 e 18 minuti, ben ritrovati da Alessandro Milan. Allora, cari ascoltatori, di cosa vogliamo parlare oggi? Abbiamo intitolato questa parte di trasmissione Causa che pende, causa che rende. Beh, un detto che a volte avete sentito dire sicuramente, no? È un modo di dire che la lunghezza, la lentezza della giustizia civile, dei processi, può spesso favorire, secondo alcuni, il gioco degli avvocati. È un'accusa grave, ovviamente, ma chi non ha mai pensato almeno una volta questo tipo di frase? È che tra avvocati e istituzioni, soprattutto tra avvocati e il ministro della giustizia Cancellieri, in questo momento c'è una tensione abbastanza forte, soprattutto dopo un fuori onda in cui la Cancellieri, che era un congresso, a un certo punto c'è stata una protesta degli avvocati della Campania e si è alzata, ha detto vado a incontrarli così me li levo dai piedi, captata questa frase dal microfono. È successo che sono saltati gli incontri, le accuse di essere una delle lobby, quella degli avvocati, che rende irriformabile questo paese. Non è che il ministro Cancellieri ha mai detto questa frase, ma ha detto semmai se l'è presa con le lobby, ne abbiamo parlato anche la scorsa settimana, cioè qualsiasi cosa si vuol fare in Italia poi c'è qualcuno che cerca di fare delle contromosse per impedire che queste cose si facciano. Allora, gli avvocati sono, secondo voi, una delle lobby che rende riformabile questo paese? Ne parliamo oggi, soprattutto alla luce anche dello scontro verbale dialettico che c'è stato nei giorni scorsi. 800 24 00 24 per intervenire. Io voglio salutare intanto Ubaldo Perfetti, che è vicepresidente del Consiglio Nazionale Forense. Buongiorno, avvocato Perfetti. Buongiorno. Buongiorno. Saluto anche Leonardo D'Urso. Leonardo D'Urso è mediatore di ADR Center, è uno studioso anche dell'analisi economica della giustizia civile, ha scritto vari articoli anche per lavoce.info. Buongiorno D'Urso e benvenuto. Buongiorno a lei e ai suoi spettatori. Allora, intanto Perfetti, voi come Consiglio Nazionale Forense avete anche comprato pagine di giornali per dire: caro ministro Cancellieri, non siamo quello che lei ha detto. In realtà il ministro Cancellieri non ha mai additato gli avvocati di essere una lobby. Qual è il rapporto col ministro in questo momento, Perfetti? Il rapporto con il ministro, noi gradiremmo che fosse quello che deve esistere tra due istituzioni. Non dimentichiamo che il Consiglio Nazionale Forense è un'istituzione italiana, nel nostro logo c'è la stella della Repubblica, questo da un punto di vista anche formale sottolinea bene il fatto di essere istituzioni, siamo la massima istituzione rappresentativa degli avvocati, quindi vorremmo avere con il ministro un'interlocuzione fluida, non patologicamente contrassegnata. Ricordo così, tanto per dire, che c'è un vecchio decreto legislativo del 44, il numero 382, che dice che il Consiglio Nazionale Forense svolge una funzione di ausilio e di consiglio del Ministro della Giustizia per tutte le questioni che riguardano gli avvocati e le leggi che possono riguardare la giustizia. Secondo lei è stato rispettato questo? Assolutamente ne detto. Noi pensavamo che con questo Ministro l'interlocuzione fosse diversa, più facile e più istituzionale, appunto. Lei pensa che noi siamo al primo piano del Ministero della Giustizia in via Renula, il ministro è al secondo. Ecco, non dico che è il ministro che deve scendere, potremmo salire noi, ma insomma. Non ha mai fatto un piano per scendere o voi per salire? Ma no, potremmo anche noi fare un piano per salire, l'importante è sentirsi e non arrivare al paradosso che il presidente del Consiglio Nazionale Forense ha notizia di alcuni provvedimenti che riguardano la giustizia, tipo la mediazione, i giudici ausiliari e così via, solo attraverso notizie di stampa e solo all'indomani della pubblicazione del decreto. Questo è inaccettabile. Non fa parte. Sì, però le chiedo perché mi scusi, però il ministro Cancellieri, dopo che c'è stato quello screzio, il fuori onda, ha detto incontro gli avvocati e siete stati voi avvocati a dire a questo punto non ci sono più le condizioni per incontrarci. Ma non ci sono le premesse, fin quando non vengono rimossi i motivi che e poi origina questa situazione. È inutile che noi ci incontriamo per fare incontri, i latini direbbero ad pompam, solo per ragioni politiche, solo per mostrare una fotografia collettiva il ministro insieme a taluni rappresentanti di avvocati. Io voglio incontri tecnici, tavoli tecnici, magari più che col ministro, con i burocrati che si occupano dell'ufficio legislativo e dell'elaborazione delle leggi. Noi abbiamo decine e decine di proposte per risolvere questi problemi. Vorremmo avere un interlocutore che li ascolta. Sappia valutare, non è che noi pretendiamo. Sì, voi trovate un interlocutore che secondo lei non ascolta, non recepisce. Tra l'altro, perfetti, le devo chiedere questo perché la linea telefonica non è perfetta. Comunque, adesso vediamo magari di migliorarla. Magari la chiamiamo su un altro numero fisso perché si sentono le parole, ma non si colgono appieno al 100%. Allora, io D'Urso, oggi sul Corriere della Sera, Sergio Rizzo fa due pagine sui costi della burocrazia quantificati in 30 miliardi di euro, ce n'è anche per la giustizia civile, alcuni dati, la durata media di un procedimento per inadempienza contrattuale di 1210 giorni, più del triplo rispetto a Germania, Francia e Regno Unito, una procedura fallimentare va avanti in media per 2567 giorni, ci sono casi anche estremi, e scrive Sergio Rizzo, forse tutto ciò è una pacchia per gli avvocati. Allora D'Urso, partendo dal principio causa che pende, causa che rende, è certo un brutale detto popolare, ma ha qualcosa di concreto su cui si basa? Ma innanzitutto no, devo smentire questo detto, ormai non la causa che pende, causa che rende poteva essere vero o quando i compensi degli avvocati erano legati alle attività giudiziarie, già da diversi anni non esiste più, per cui non è quello il problema. Io farò una premessa fondamentale, secondo me molto importante. Primo, non credo che sia gli operatori del settore, sia la politica hanno a coscienza della gravità del sistema giustizia. Non esiste un servizio equivalente dello Stato come i trasporti o la sicurezza o la sanità in cui noi siamo messi peggio. Dire il terzo mondo offendiamo il terzo mondo. La lentezza della giustizia, appunto i 1210 giorni della Banca Mondiale recentemente, la settimana scorsa, anche il Fondo Monetario Internazionale intervenuto sulla giustizia, pesa un punto di PIL, cioè 15 miliardi e mezzo circa, molto più dell'IMU, anche se sono chiaramente cose diverse. Però ecco, si parla solo di IMU, sì. No, ma capisco molto bene la battuta, in Italia si parla solo di IMU, che sono 4 miliardi, quando invece le vere riforme da fare sarebbero altre, non che l'IMU non sia importante. Perfetto, si parla sempre soltanto di giustizia, negli ultimi anni di giustizia penale, di divisione delle carriere, di PM, ma il problema è la giustizia civile. Noi siamo nella classifica della Banca Mondiale fra l'Iraq e l'Afghanistan, non so se mi rendo. Cioè come cosa? Come lentezza dei procedimenti? Come lentezza della giustizia. Ma meglio dell'Afghanistan o meglio dell'Iraq? No, riusciamo a battere per 4 posti l'Afghanistan, sì? Abbiamo questa soddisfazione, ma ci sorpassa l'Iraq. Ma il punto essenziale in cui dobbiamo, secondo me, centrare è il perché di questo. E io, così come tantissimi analisti di economia del diritto e della giustizia civile, individuo nelle cause pretestuose, cioè sulle sopravvenienze che ogni anno in Italia sono 4 milioni e 200 mila, cioè le nuove cause che entrano nel sistema sono 4 milioni e 200 mila, inondando i tribunali, e questo rende, a fronte invece di una spesa per abitante di 50 euro. Queste 4 milioni e 200 mila, siccome c'è il rappresentante del Consiglio Nazionale Forense, secondo lei, D'Urso, un'accusa che si sente di fare, sono date dal fatto anche che gli avvocati si vanno a cercare le cause? Secondo me anche quella è un effetto, non è la causa. Noi abbiamo un sistema in Italia da anni, da secoli. Calamandrei nel 1921 ha pubblicato un libro, Troppi avvocati, per cui è la presenza degli avvocati è normale. Il problema, appunto, c'è questa equazione: troppe cause uguale una durata eccessiva del giudizio. E il problema sono le cause pretestuose. Le cause pretestuose, sì. Le cause, la domanda drogata. Vediamo su questo. Perfetti, vuole rispondere a una delle altre accuse che si fa, intanto il fatto di essere troppi, cioè troppi come avvocati, e quindi creare anche delle cause. Questo passaggio forse lo faccio io in maniera successiva. Perfetti. Sì, guardi, questo del numero degli avvocati e della pretestuosità delle cause sono due argomentazioni che vengono utilizzate per risolvere con semplicità e senza approfondimento il problema. Non è vera né l'una né l'altra. Intanto, per quanto riguarda la pretestuosità, il codice di procedura civile appresta una serie di strumenti per sanzionare l'eventuale pretestuosità. Dà al giudice la possibilità di condannare la parte che abbia agito con colpa grave o con dolo a una sanzione pecuniaria, al condannare al risarcimento del danno. Può, con le nuove disposizioni si può prevedere l'obbligo della comparizione delle parti per provocare la loro conciliazione. Insomma, il problema della pretestuosità è un problema in veritiero e nei limiti in cui possa corrispondere alla realtà di alcune limitate situazioni è risolvibile con gli strumenti sanzione, è sanzionabile del giudice. Il problema degli avvocati, vede, dicendo che nel 1921, già nel 21 Caramandrei parlava di troppi avvocati e gli avvocati a quell'epoca erano poche migliaia, significa dimostrare che il problema non è assolutamente questo. Intanto i numeri. Si dice che noi avvocati siamo 240.000, forse è vero, ma tra questi 240.000 bisognerebbe sottrarre intanto una 60-70.000 avvocati che sono coloro i quali sono formalmente iscritti ma non esercitano. Se prendiamo come punto di riferimento gli avvocati iscritti alla cassa, cioè gli avvocati che per produrre un minimo di reddito esercitano, effettivamente non siamo né più né meno degli avvocati spagnoli, inferiori come numero agli avvocati tedeschi per una popolazione inferiore a quella tedesca. Quindi occorre conoscere i dati. Quindi dice molti sono iscritti ma non esercitano. Quindi non... Certo, ma è vero che la nuova legge professionale prevede per la prima volta, attribuisce ai consigli dell'ordine un potere di verifica dell'effettività dell'esercizio. Perché non dovrebbero essere, non dovrebbero fuoriuscire dall'ordine uno che non esercita. La nuova legge professionale prevede proprio questo, che dopo un complesso accertamento, non certamente effettuato nel giro di un giorno, ma un complesso accertamento che prende in esame un periodo più o meno lungo dell'interessato, può prevedere la cancellazione dell'albo. No, però è un punto interessante, dice non siamo troppi, cioè se si guardano i dati così non siamo troppi. No, fermatevi un attimo che devo dare la pubblicità, qualche minuto, poi rientriamo con voi due. Ubaldo Perfetti, voglio ricordare, vicepresidente del Consiglio Nazionale Forense, e Leonardo D'Urso, che è mediatore, ADR Center e studioso della giustizia civile. Ci raggiungerà anche il presidente dell'Ordine degli Avvocati Campani, perché Gian Antonio Stella ha scritto questo articolo dicendo ma come, ci sono per esempio un numero spropositato di incidenti stradali in Campania, molto spesso sono anche inventati, e sarà con noi tra poco anche con le vostre telefonate 800 24 00 24. 24 mattino. Allora, 8:35 minuti, gli avvocati sono una delle lobby che rendono irriformabile questo paese, perché antepongono i loro interessi legittimi agli interessi di una riforma della giustizia, per esempio. È un po' il tema che si è sviluppato la scorsa settimana anche in una diatriba dialettica con il ministro alla giustizia Anna Maria Cancellieri. Siamo con Ubaldo Perfetti, che è vicepresidente del Consiglio Nazionale Forense, con Leonardo D'Urso, mediatore, e voglio salutare anche Francesco Caglia, che è presidente dell'Ordine degli Avvocati di Napoli. Buongiorno presidente. Buongiorno a lei, buongiorno a D'Urso. Perfetto. Allora, prima di venire a lei Caglia, D'Urso vuole replicare sulla questione dei numeri brevemente sul tema. Perfetti dice intanto ci sono molti che non esercitano e poi non è proprio così, cioè non sono i numeri, vengono messi in maniera in pompa magna, ma non sono, fanno titolo ma non sono effettivamente la fotografia reale della situazione. Tre punti. Uno, noi abbiamo il 43% di cause in più rispetto alla media degli stati del Consiglio d'Europa. Oggi ribadisco, sono il numero di cause il grande problema in Italia. C'è un problema di distribuzione, è l'ufficio del studio della Banca d'Italia che certifica che vi sono molti avvocati, soprattutto in Calabria e in Campania. Sulle sanzioni per lite temeraria, resistenza temeraria, che ha citato Perfetti, l'avvocato Perfetti, sicuramente ci sono nel codice, però i giudici non la applicano. Io da tempo propongo una meno discrezionalità e un automatismo nell'applicazione delle sanzioni in caso di lite e resistenza temeraria. Questo diminuirebbe di molto le cause pretestuose che sono il gran problema in Italia. Quindi insomma il 43%, questo è interessante, cause in più rispetto ai restanti paesi. No, abbiamo 2 milioni in più di cause nel sistema. Qualcuno le promuoverà, ecco. Allora, Presidente Caia, il punto è questo. Intanto lei è stato uno dei più duri nel commentare il cosiddetto fuori onda del ministro all'interno, sono di un governo passato, sono indietro di un governo, del ministro della giustizia Anna Maria Cancellieri. Perché è stato così duro? Ha parlato di paese illiberale. Ma guardi, innanzitutto perché la ricostruzione pure fornita dall'ufficio stampa la settimana scorsa non corrisponde alla verità dei fatti, anche perché eravamo io e i sindaci a aspettare il ministro, c'era una nota inviata il giorno precedente, l'assicurazione il venerdì stesso ci avrebbe incontrato in nostra biblioteca, il giorno successivo abbiamo atteso per un'ora il ministro ma non è venuto perché considerava prioritario l'altro convegno, tra l'altro ci hanno detto che sarebbe partito in aereo, cosa che poi non è avvenuto. Ci siamo recati con i sindaci in fascia tricolore dove si svolgeva il convegno, attendevamo silenti fuori dal saloncino per entrare a leggere questo documento di protesta, poi in realtà levarsi dai piedi non era rivolto a quei pochi colleghi che contestavano all'interno, sì, ma era rivolto a noi perché poi, così come documentano i mass media, si è incontrata con noi, quindi abbiamo vissuto sulla nostra pelle di avvocati e purtroppo di amministratori del territorio che levarsi dai piedi era rivolto nei nostri confronti. Ma lei non crede che levarsi dai piedi, cioè non era legato al fatto, come dire, non voglio affrontare i temi della giustizia con loro, ma in quel momento, visto che si disturbava tra virgolette un convegno, dice leviamoci dai piedi queste persone? Guardi, che... noi non eravamo tra i disturbatori e poi non si è incontrato questi quattro giovani colleghi che secondo il ministro facevano gazzarra, ma si è incontrata con me e con ben 10 sindaci con fascia tricolori, quindi questo non è un fatto grave nel nostro paese, poi mi dica. È grave. Quindi lei condivide il fatto che poi gli avvocati non abbiano più voluto incontrare il ministro successivamente? Ma se lei deve parlare di una questione personale con una persona che poi l'incontra così per diciamo in maniera per levarsi dai piedi, penso che non voglia più incontrare. Se poi si tratta del ministro della giustizia dei problemi di efficienza di cui state parlando oggi, penso siano temi estremamente gravi che rispetto dell'interlocutore, quantomeno per ascoltare quelle che sono le nostre istanze, il minimo. Insomma, quindi in questo momento la tensione resta. Il giorno dopo cosa è uscito? È uscito un articolo di Gian Antonio Stella, al quale anche lei ha risposto piccato, dicendo eccolo lì, in Campania, per esempio, è un fiorire di incidenti stradali, molto spesso inventati per fare le cause anche nei confronti dell'assicurazione. Cosa c'è di non vero in tutto questo? I numeri sicuramente saranno veri, cioè che in Campania sono... Io le dico, innanzitutto questo corrisponde al dato di eccezionalità che vive il nostro territorio, da questo anche la nostra richiesta di incontrare il ministro sui temi della geografia giudiziaria. Basti pensare che, non so se sono precedenti, la nostra amministrazione locale è sotto inchiesta alla procura per la manutenzione delle strade, quindi c'è un dato di eccezionalità nel nostro territorio. Ah, sono le strade che causano... E io tra l'altro sono pure stato personalmente lesa di un episodio, un San Pietrino che è saltato dal selciato, non so se ci sono... Presidente, che l'alto numero è legato al fatto della manutenzione delle strade peggiore nella regione Campania, che quindi crea più incidenti. Ma anche dati di eccezionalità, noi abbiamo dei dati di eccezionalità che comunque non hanno riscontro in altre parti d'Italia. Poi per quanto riguarda il dato patologico che ricorda Stella nel suo articolo della settimana scorsa, io ricordo che oltre ai meccanismi processuali ci sono le verifiche delle compagnie assicurative, cioè l'autorità giudiziaria deputata a scovare eventuali truffe, quindi ci sono dei meccanismi di controllo che se c'è necessità debbono essere necessariamente attivati. Ma qui insomma è come la questione, mi scusi Caia, è come Perfetti che vorrei coinvolgere, cioè Caia dice se ci sono delle truffe il meccanismo di controllo deve intervenire, e Perfetti prima ci diceva se ci sono delle cause che vengono fatte in maniera assolutamente pretestuose c'è la possibilità di sanzionare da parte del giudice e l'avvocato. Ma questo avviene, Perfetti, perché cioè sembra quasi un meccanismo allora perfetto, mi scusi se ciò, quindi uno dice di cosa stiamo parlando, funziona tutto alla perfezione, se uno truffa viene sanzionato, punto. Guardi, io rispondo con un invito tutti a leggere l'ultimo libro di Stefano Rodotà, Il diritto di avere i diritti, e Rodotà dice con molta chiarezza che noi siamo passati dallo stato di diritto allo stato dei diritti. Noi ci riempiamo la bocca di democrazia, e il segno della democrazia è l'esercizio dei diritti, è la loro tutela, è emblematico l'articolo 24 della nostra Costituzione che dà a ciascuno il diritto di difendersi. Poi quando andiamo al dunque, questi diritti li vogliamo esercitare o no? Noi arriviamo al paradosso che, come se si trattasse di un tratto autostradale intasato dal traffico, la risposta che l'ordinamento sta dando, come il proprietario dell'autostrada, è quello di restringere l'accesso all'autostrada, non quello di creare una terza o una quarta corsia. Noi stiamo parlando di cause che sono il lievito della democrazia, la tutela del diritto e il lievito della democrazia. Noi in 40 anni abbiamo fatto dei passi avanti giganteschi in tema di sensibilità democratica, di sensibilità nella tutela dei diritti, e questa era effettiva democrazia. Aumentiamo il numero dei magistrati, dotiamo il Ministero della Giustizia, gli apparati periferici, sì. Di maggiori, ma non limitiamo in entrata. Questa me la sono segnata questa frase. Ma noi abbiamo un codice deontologico rigorosissimo che noi come Costituzione Forense, sì, applichiamo. L'abuso del processo lo applichiamo anche noi come principio. Dove questo non sì. Il giudice, arriviamo noi. Fatemi sentire qualche aspetti, mi faccia sentire qualche sì. ascoltatore, perché questa frase, tra l'altro, poi ad Urso la ripeterò, me la sono segnata. La tutela del diritto è il lievito della democrazia. Gennaro da Napoli, che mi hanno detto essere un avvocato, è vero Gennaro? Avvocato furibondo penalista napoletano. Avvocato furibondo penalista napoletano. In che ordine? In che ordine? Più furibondo, più penalista o più napoletano? Più tutte e tre. Guardi, quando mi capita di andare in corte di appello a Napoli, sì, non mi succede mai che l'udienza inizi con un ritardo inferiore all'ora e mezza. Un'ora e mezza. A volte si è arrivati anche alle 11:40. Qui siamo andati sul penale. Quindi non venite a dire che siamo noi che facciamo durare i processi, che siamo noi che non vogliamo lavorare. C'è qualcuno che arriva in ritardo di due ore e mezza. Sì, ma questo, mi scusi Gennaro, è ritardo contestuale sulla causa. Ma No, dell'udienza. No, sì, dell'udienza. Vabbè, è il ritardo dell'udienza. Quando si va a fare una causa al giudice di pace, ma io le porto dati precisi, perché poi se qualcuno contesta io tiro fuori verbali e carte. Sì. Mi inturno per un eccesso di velocità, ci hanno messo 6 anni per leggere un foglio che avevo scritto, un foglio 6 anni. Ma forse perché sono ci sono, ma Gennaro, 8 volte a Minturno. Gennaro, mi scusi, forse proprio perché c'è un ingolfamento, non lo so, forse. Guardi, perché forse non c'è organizzazione, non c'è nessuna sanzione quando la gente non lavora, quando la gente va in ritardo, e quindi tutti se ne fregano. E la colpa è nostra, che siamo l'anello debole, l'anello poco rappresentato, l'anello che mediaticamente viene sistematicamente perseguitato. Lei, Gennaro, si è mai chiesto se una delle cause per cui si porta a leggere un foglio ogni 6 anni è il fatto che ci sono troppe cause, quindi... Bastava leggerlo quel giorno il foglio, non farmi andare 8 volte. Come ci sono andato. Quindi non è questo il problema, il problema è che si lavora poco e male. Andare a Eboli, altro lato, assurdità. Bene, un procedimento che poi si prescrive o si finisce con assoluzione, dura 10-12 anni, le carte non vengono fatte, non vengono definite, scrivi al cancelliere, vai apposta là, siamo pochi, ci abbiamo da fare. Non c'è voglia di lavorare, non c'è voglia di lavorare, noi siamo l'anello debole che si assume le responsabilità del malfunzionamento di tutta la struttura. Va bene, quindi grazie Gennaro. Grazie Gennaro furibondo, avvocato penalista napoletano. Eccoci alle 8:46 minuti. Roberto da Milano, buongiorno, un altro ascoltatore. Roberto. Sì, buongiorno, dico una cosa semplicissima. Si diceva prima che di avvocati ce ne sono parecchi che non esercitano, ma non ce ne sono altrettanto troppi in politica? In politica? È una delle categorie più rappresentate in Parlamento, questo senza dubbio. Quindi, secondo voi, che cosa faranno quando devono decidere qualcosa che li penalizza? È una domanda che giro ad Urso. D'Urso vuole rispondere. È uno dei problemi, secondo Roberto, l'alta rappresentatività della categoria degli avvocati in Parlamento, una delle professioni sicuramente più rappresentate numericamente, e poi quella frase, la tutela del diritto è il lievito della democrazia. D'Urso, volevo partire proprio sulla tutela del diritto. Allora, per spiegare agli ascoltatori, immaginatevi se per salvaguardare il diritto alla salute o alla sicurezza gli ospedali siano costretti a ricoverare chiunque si presenti in pronto soccorso, anche per un raffreddore o malati immaginari, o le volanti dovessero intervenire anche per una lite tra bambini. È chiaro che i malati veri morirebbero in fila e i rapinatori scorrazzerebbero in città. Questo è un principio che è stato non da me, ma ultimamente evidenziato dal vicepresidente del CSM Michele Vietti. Lui lo chiama la visione tribunale centrica della giustizia in Italia. Dal primo presidente della Corte di Cassazione, Giorgio Santacroce, secondo il quale molte controversie non devono entrare in in tribunale, come il condominiale, come l'opposizione alle multe, dovrebbero avere una via amministrativa e non giudiziaria. Ecco, questo buon, come calcolo io, 50% di contenzioso pretestuoso rallenta il contenzioso reale. 50%? Cioè secondo lei il 50% delle statistiche è pretestuoso? Se noi utilizziamo come benchmark... Ma come, se ci sono le sanzioni, dice Perfetti? Ma le sanzioni ci sono, ma non vengono applicate. Sfido chiunque, qualsiasi avvocato che ha avuto la fortuna di vedersi applicato in, a proprio favore, una sanzione per lite o resistenza temeraria. Esistono l'articolo 96 del codice, ma purtroppo non vengono assolutamente applicate. Questo è un problema sicuramente grave sui magistrati. I magistrati non applicano le sanzioni. Quindi c'è il lievito della democrazia, ma qui c'è proprio un'abbondanza di lievito. Quindi poi le risorse sono rare e preziose, vanno salvaguardate e i primi vittime dei tribunali intasati, per esempio in Campania, sono proprio i cittadini e le imprese campane che non trovano i tribunali intasate. Ma questo infatti è un punto essenziale. Allora io vorrei tornare da Caglia, presidente dell'Ordine degli Avvocati di Napoli. Non crede, è vero come ha detto l'avvocato Perfetti, che il lievito della democrazia e la tutela del diritto, però non crede che già siamo un popolo litigioso, presidente Caglia, per una qualsiasi lite o controversia dice ti porto in tribunale, ti querelo, ti denuncio, eccetera. E forse questo è chiaro, che di fronte a uno che si presenta da un avvocato dice guardi, il vicino di casa mi ha detto questo, questo e quest'altro, voglio querelarlo, e l'avvocato dice beh c'è margine perché codice alla mano, sono offese, eccetera. Cioè non è un meccanismo che incentiva troppo il fatto di andare a rivolgersi a un giudice, con tutte poi le colpe che possono avere i magistrati nel non lavorare? Ma guardi, io dico che innanzitutto volevo rispondere al telespettatore di prima, cioè non siamo lobby, anche perché basta dire che la mediazione obbligatoria, geografia giudiziaria, non voluti dall'avvocatura, sono provvedimenti ormai attuati dal governo e dal Parlamento. Poi per quanto riguarda il problema della giustizia, a mio avviso si sbaglia proprio prospettiva. Allora, la giustizia o è una priorità o è una priorità, investimenti nel campo della giustizia non li abbiamo, come diceva il collega arrabbiato napoletano prima, è un problema anche di organizzazione, può mettere anche pochissime cause, ma se non c'è degli amministrativi sufficienti, se lei non informatizza l'ufficio, il processo sarà sempre lento. Quindi, sì, ma D'Urso ci sta dicendo che a suo parere il 50% del contenzioso è pretestuoso. Cioè, sta dicendo, guardi, cioè, che una delle due cause, non so D'Urso quali dati prende sulla pretestuosità. A me sembra addirittura un po' eccessivo il 50% perché il numero, se è lo scarto e l'anomalia che in Italia è lo scarto tra il numero di sopravvenienze che sono 4 milioni e 3 e la media del Consiglio. Cioè dice se la media europea è la metà della nostra, che siamo noi? O succede che in Italia siamo un popolo di azzuffatori, per cui oppure un altro dato, in Cassazione noi abbiamo 30.000 cause in più ogni anno, 30.000 cause nuove ogni anno, in Germania ce ne sono 300, negli Stati Uniti 40. Il presidente, vicepresidente Vietti parla di Bella. Noi abbiamo la prima partita, la rivincita che è l'appello e la Bella in Cassazione. Sì, sì. Non esiste in nessun altro, in pochissime giurisdizioni. E dice potremmo togliere le gradi di giudizio. Ma poi fatemi dire anche una parola sulla mediazione. Sì, e la dica. Beh, dobbiamo fare sicuramente un'informazione corretta. La DL Fare introduce un nuovo modello di mediazione molto diverso dal decreto legislativo 28/2010 e prende proprio in considerazione le osservazioni fatte da diverse associazioni di avvocati dal congresso di Bari. La mediazione, non si può parlare più di mediazione obbligatoria, lo svolgimento della procedura di mediazione è volontaria con il consenso delle parti, il consenso avuto in un incontro informativo. Questo incontro informativo è un po' l'uovo di Colombo, è un incontro informativo che deve essere svolto entro 30 giorni dal deposito dell'istanza. Però cose un po' più tecniche, diciamo che però il concetto è che il decreto è fare vuole estendere l'obbligatorietà del tentativo di conciliazione. No. Non è un'obbligatorietà, è un conto informativo. Rispetto al decreto precedente vengono escluse le RC auto, tra l'altro, e le parti si devono appunto incontrare davanti a un mediatore a costi praticamente gratuiti, perché si paga un tetto massimo da 60 a 200 euro. Per massimo vuol dire che gli organismi possono anche offrire questo primo incontro gratuitamente, perché il tetto è massimo. Questo importo comunque viene defalcato totalmente dal credito d'imposta successivo, anche in caso di insuccesso, e comunque in caso di giudizio successivo può essere richiesto come un rimborso, diciamo, delle spese legali. Vabbè, e su questo non è da poco. No, non è da poco. Perfetti, le chiedo questo in conclusione: cosa deve cambiare perché voi possiate tornare a incontrare il ministro Cancellieri? Mi devi dare un... Sì. Ecco, io mi riprometto in un minuto, ma lei mi deve lasciare un minuto per un discorso compiuto. Allora, io non conosco i numeri delle cause che ha indicato prima l'interlocutore. Do per scontato che sia corretto. Così come da giurista le dico e riconosco che quando parlo dell'articolo 24 della Costituzione della tutela dei diritti, non ho la pretesa di dire che il diritto si tutela necessariamente attraverso il processo che ha le sembianze del processo che noi tutti conosciamo davanti al magistrato. Il diritto si può tutelare anche in modi alternativi al processo, e le esperienze, soprattutto anglosassoni, legislative, sono piene, ricche di esempi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, dalla mediazione all'arbitrato, all'early neutral evaluation, al mini trial, eccetera. Quindi l'avvocatura, questo è un punto fondamentale, non è assolutamente contraria alla mediazione come forma di ADR, cioè come forma di risoluzione alternativa. È contraria alla mediazione obbligatoria. Questo non mi si venga a dire il decreto del fare, che io leggo probabilmente è diverso dal decreto del fare che legge il mio interlocutore, perché lì c'è una mediazione obbligatoria che costituisce condizione di procedibilità, e su questo è il punto. Se lei legge il comunicato stampa dell'ufficio legislativo del Ministero... Su questo però non cedete. Beh, assolutamente, questo è un punto qualificante, le spiego perché è qualificante. Nel comunicato stampa del Ministero di venerdì c'è scritto alla domanda: ma perché avete inserito la mediazione, avete reintrodotto l'obbligatorietà della mediazione? Il Ministero risponde: per rispondere ai forti, cito le parole testuali del comunicato, forti e chiari stimoli provenienti dall'Europa. Bene, diamo un volto a questa Europa. Il volto dell'Europa è la direttiva del 2008 del Parlamento e del Consiglio del 21 di maggio. Vogliamo verificare che cosa si aspetta il lettore di trovare in questa direttiva. A chiare lettere scritto che tutti gli stati membri debbono introdurre forme obbligatorie di mediazione. Non è così. Io le leggo. Si fermi, perfetti. Non mi può leggere perché sennò sfora assolutamente. Io prometto, su questo tema torneremo. Tanto abbiamo invitato anche il ministro Cancellieri. Spero nei prossimi giorni possa essere nei nostri microfoni. Mi devo fermare qui. Devo ringraziare tutti e ci troviamo domani alle 6:30. 24 mattino.